Io parlo a nome del coordinamento PDS che insieme ad altri numerosi gruppi e associazioni sia pro-palestinesi sia dei diritti umani protestano contro la partenza del Giro d'Italia 2018 da Gerusalemme, e in quanto per noi sembra una forma di quello che viene chiamato sport washing, cioè di candeggina che viene utilizzata da Israele per ripulire la propria immagine, e come è stato detto anche recentemente da un famoso giornalista del Guardian, è stata una colossale azione di marketing per aggiudicarsi questa corsa gloriosa senza nessun motivo né tecnico, ma con molti motivi politici, che sono quelli di avvalorare le decisioni anche di Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele, mentre non lo è dal punto di vista del diritto internazionale, e anche di confermare Israele come un paese democratico, mentre proprio in questi giorni si susseguono i massacri di giovani che protestano contro la mancanza di diritti, proteste spontanee e non violente da parte di giovani, soprattutto a Gaza, e finora purtroppo siamo arrivati già a 50 morti, oltre 5.000 feriti. Proprio oggi, tra l'altro, è venerdì e speriamo di non rivedere le stesse scene che abbiamo visto nei venerdì precedenti. Speriamo, ma temiamo che non sarà così. Noi ogni volta che facciamo un comunicato vediamo che è immediatamente smentito, perché le cifre non sono mai abbastanza aggiornate, ogni giorno ce n'è una nuova. L'ultima morte di questo giornalista giovane palestinese. Israele dal 2013 ha ucciso 23 giornalisti palestinesi, quindi è un tiro al piccione ed è una cosa intollerabile e viene ignorata completamente dagli organizzatori del Giro. Quindi appunto gli organizzatori del Giro in questo modo fanno propaganda al governo israeliano? Sì, praticamente vendono queste immagini di un Israele normale, fra virgolette, mentre normale non lo è per niente, perché si ignora completamente la situazione della popolazione palestinese, i cui più della metà sono profughi o figli di profughi, passano in luoghi dove c'erano dei villaggi palestinesi che sono stati rasi al suolo durante il 48, durante la Nakba, che è la catastrofe, che è il ricordo triste che i palestinesi hanno di quello che invece gli israeliani celebrano come il giorno dell'indipendenza e della vittoria. Ecco, in questi giorni abbiamo visto anche, ha fatto polemica le dichiarazioni di Abu Mazen. Voi cosa pensate? Personalmente, Abu Mazen ha fatto il suo tempo, questo lo dicono in molti da parecchio tempo. Ha fatto delle dichiarazioni assolutamente non condivisibili e neanche concordate, per cui un po' estemporanee, che fanno più o meno controbilanciano in parte le tante dichiarazioni anti-arabe, anti-palestinesi che quotidianamente i ministri israeliani fanno, ma queste vengono assolutamente ignorate perché non fanno storia. Fa storia solo se un'improvvida e assolutamente inadeguata frase di Abu Mazen in un discorso di 90 minuti viene estrapolata e giustamente condannata. La campagna BDS, ma penso anche associazioni come Asso Palestina, sostengono l'opposizione, diciamo così, civile israeliana. Noi abbiamo molti legami con la società civile israeliana che in parte, anche se sono piccole minoranze, sostengono i diritti dei palestinesi. Lo spettro è molto ampio, si va da B'Tselem, le donne in nero, la rete ebrei contro l'occupazione qui in Italia. In America c'è una grossa associazione ebraica che si chiama Jewish Voice for Peace, che sono decine di migliaia di persone, tutti molto giovani. Nei college universitari in America e in Inghilterra vi sono tante iniziative portate avanti dai giovani israeliani insieme ai palestinesi, i giovani ebrei, scusa. E quindi naturalmente sono minoranze che vengono ignorate o tacitate o accusate di collaborazionismo o di tradimento, e molti di loro vengono anche perseguitate. Prima facevi riferimento allo spostamento dell'ambasciata a Gerusalemme che dovrebbe avvenire in questi giorni. Che effetto può provocare? L'effetto lo sta già provocando, perché dal 30 marzo, quando sono iniziate le proteste per celebrare il diritto al ritorno, il diritto alla terra, giornata della terra dei palestinesi, sono iniziati i massacri. Già prima c'erano state, dopo le dichiarazioni di Trump, degli scontri a Gerusalemme con alcuni morti, ma tanto i palestinesi morti non contano, la cosa è triste. Però quello che sicuramente avverrà è una ulteriore spaccatura nei rapporti fra palestinesi, un peggioramento ulteriore dei rapporti, perché Trump, che prima si ergeva ad arbitro, adesso si è messo a giocare con la squadra che vince, e quindi l'America è tagliata fuori da qualunque possibilità di mediazione fra le parti. Chi prenderà il suo posto dell'America in questo ruolo, non facile, vedremo.